Benvenuti su Banda Armata, la trasmissione che è di Fuori Onda Radio del collettivo P2. Adesso diamo un grande saluto agli ascoltatori sul web e ascoltatori che stanno ascoltando adesso in streaming, mentre un saluto posticipato, diciamo, per gli ascoltatori che ci sei. Un saluto posticipato, nel senso posteriore, anticipato, per gli ascoltatori di Radio DC Roma e di Radio Transizione di Fase, che ci ascolteranno giovedì, in differita, diciamo. Grande Peppe Lancia alla regia, un ritorno epocale. Vai con la sigla. Razzinga! Razzinga! Dalla fortezza di San Pietro arriva, coi pugni teologici, Razzinga! Razzinga! Tuona, si scaglia dal sagrato contro il male, se sei nemico prega è già finita, la Chiesa batte in indice, Razzinga! Razzinga, croci rotanti, Razzinga, Pater Noster, Razzinga, ostia di fuoco, ha la mente di Lutero ma tutto il resto va da sé, non conosce la paura né tra italiane che cos'è, lotta cade, si rialza, sempre vincerà, Razzinga. Dagli occhi sputa fuori salmi gamma, non c'è chi è forte più di te, Razzinga. Razzinga, ha la mente di Lutero ma tutto il resto fa da sé, non conosce la paura né sa italiane che cos'è, se hai bisogno puoi invocarlo. Iniziamo la puntata di Banda Armata facendo un elenco di quelle che saranno le densissime argomentazioni che tratteremo. Partiremo con un aggiornamento sulla situazione universitaria, diciamo, facendovi sentire quelle che sono le prime impressioni a caldo su quello che abbiamo già, di cui abbiamo già discusso la settimana scorsa, ovvero sia la Costituzione, la modifica della Costituzione di fatto dell'Ateneo, il nostro statuto, quindi la commissione, eccetera, eccetera. Poi parleremo della modifica che si fa alla Costituzione, o meglio che si vuole fare alla Costituzione, gli articoli 41, 97 e 118, che è uscita fresca fresca oggi dal Consiglio dei Ministri. Poi parleremo di una giornata che c'è stata a Cosenza nel dicembre, se non vado errato, la giornata contro una contro l'espressione di Tilger, una giornata antifascista da Cosenza, poi parleremo di Egitto e Maghreb, della questione internazionale molto calda in questi giorni, e poi di lavoro e di Fiat, quindi come sempre una giornata molto intensa. Iniziamo dal primo punto. Dopo che la settimana scorsa, mercoledì scorso, come ricorderete, vi abbiamo lanciato la formazione che dei 15 Superman che cambieranno di fatto la costituzione del nostro Ateneo, lo statuto di Ateneo, una commissione che diciamo a molti ha dato, la cui composizione a molti diciamo ha fatto storcere il naso. Una prima mancanza fra tutte è quella dei rappresentanti dei precari invisibili, ma riguardo questo io ho tra le mani il comunicato dei precari invisibili della ricerca Unical e ne leggo due passi che secondo me sono importanti. Un primo che fa una riflessione sulla condizione che emerge da questa mancanza appunto in commissione statuto. La scarsa rappresentatività della commissione statuto e l'esclusione della stessa commissione dei ricercatori precari sono i segnali evidenti dello spirito baronale che inaugura la tanto declamata nuova era dell'università pubblica. Dall'altra parte invece c'è un'apertura, i precari dicono: i precari invisibili della ricerca Unical continueranno comunque a dare voce alle istanze del precariato e a lottare per un'università più giusta e libera, fornendo il loro prezioso contributo di esperienza e innovazione in questa importante fase per l'Ateneo e richiedendo nei prossimi giorni all'intera commissione e ai singoli membri audizioni e incontri per esprimere eccetera eccetera. La cosa che fa riflettere è che se da una parte i ricercatori stanno realizzando più o meno lo sfacelo che c'è, i precari invisibili della ricerca in passato sono stati dal fianco degli studenti, anche se in questo autunno mi sembra che un po' siano stati latenti, tranne qualche sporadica apparizione, almeno qua all'Università della Calabria, si sono fatti desiderare molto. La loro posizione, devo dire, che è un po' curiosa, perché traccia le stesse linee che sono tracciate da altre organizzazioni che abbiamo discusso già l'altro giorno, ovvero sia la paradossale apertura verso questo momento di riscrittura delle leggi dell'università, che ovviamente non danno spazio assolutamente a quelle che sono ampliamenti di diritti. Abbiamo letto l'altro giorno cose assurde di questo tipo, che addirittura questo momento è un momento di ampliamento dei diritti, che sinceramente fa riflettere sulla, perlomeno sulla mancanza di lucidità, se non si vuole essere eccessivamente diciamo maliziosi, ecco. La mancanza di lucidità di questi soggetti che ancora una volta, nonostante abbiano avuto l'ennesima conferma del fatto che a nessuno interessa di preservare quelle che sono le componenti più deboli di questa università eccetera, anzi da ormai 10 anni la direzione è quella di favorire aziende, di favorire baroni e di favorire, o meglio senza fare la solita retorica, invece di parlare di baroni parliamo proprio di quelli che, di favorire quelli che sono gli ordinari, che per esempio nella commissione statuto hanno la maggioranza, guardate un po', di favorire quelli che sono gli studenti che piegano la testa e fanno il loro dovere, la responsabilità a cui più volte i rettori e i presidi richiamano la componente studentesca eccetera, e non hanno... No, Gustavo, interrompo Gustavo su questo punto perché è interessante. Cioè, la questione è posta spesso in questi termini. Allora, siccome dobbiamo fare cassa, dobbiamo risparmiare perché ci sono i tagli, perché c'è la crisi, perché c'è sempre qualcosa, allora noi cosa facciamo? Avviamo questo bel processo di governance, che significa ridurre l'incisione delle componenti universitarie all'interno dei processi di decisione, no? Significa in sostanza avere un modello verticale di organizzazione. Il paradosso secondo me sta proprio qui, nel senso che io credo, come altri come me, che l'unica vera garanzia per, come dire, spendere meglio i nostri soldi e spenderli sia quantitativamente o anche qualitativamente meglio, sia quello di confrontarsi, sia quello di amministrare, governare, gestire attraverso un'organizzazione orizzontale partecipata, in cui ciascuno possa dire la sua e ciascuno possa anche contribuire alla riflessione collettiva e all'amministrazione collettiva. E quindi l'unico vero controllo è quello dato dalla democrazia interna. E trovo che proprio qui sta il paradosso, cioè sta qui il vero problema di impostazione, il vero problema. Perché allora se le riforme, come le piace chiamare, vanno nell'altro verso, vanno in senso verticale, allora non è più una cosa che si fa per esclusivi motivi economici, ma è una cosa che ha a che vedere sostanzialmente con una spartizione della fetta di torta, con un'organizzazione autoritaria, con tutti questi altri problemi con noi come componenti studentesche, come cittadini, come persone che pensano normalmente, credo, ci troviamo a scontrarci. Ma è chiaro che noi stiamo assistendo da molte parti, anche purtroppo dalla componente studentesca a livello nazionale, a livello locale, di una sorta di ripiegamento. In che termine? Ovvero sia, noi stiamo assistendo e i precari della ricerca, che sono i soggetti più danneggiati da questo stato di cose, che cosa fanno? Rispondono come si fa da altre parti, rispondono mettendo a ferro e fuoco tutto quanto, rispondono ergendosi sulla loro colonna vertebrale, che è fatta da anni e anni di formazione, gridando a gran voce il loro dissenso. Gli studenti cosa fanno? Si muovono come hanno dimostrato di saper fare il 14? No, noi stiamo assistendo in questo momento ad un accodamento dietro questa commissione statuto, ipotetica, come se questa fosse davvero capace di risolvere i problemi. Stiamo assistendo ad un tentativo di racimolare, ma non sono nemmeno più le briciole, sono le ombre delle briciole che ci lascia questo governo e ci lascia tutto lo Stato, tutto quello che è l'apparato governativo che sta dietro queste norme, in maniera che secondo me ormai non ha più senso di esistere. Non ha più senso di esistere che i precari della ricerca oggi dicono che continueranno a dare il loro contributo a questo cambiamento. Non hanno più senso che non penso abbia senso che gli studenti dicano dobbiamo stare attenti a controllare i passaggi. Ormai siamo arrivati al capolinea, bisogna capire questo. Bisogna capire che è arrivato il momento, cioè l'abbiamo già passato da un pezzo per quanto mi riguarda, il momento di alzare la testa e iniziare a lottare seriamente, perché la situazione è davvero patetica. Quindi in questo momento io do mano libera a Peppe Langi, che ci mette una canzone. bless my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, my hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, gonna feel fine when I'm near the girl that I love best. My heart beats so it scares me to death when she touches my hand. Oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. My tongue gets tied when I try to speak. My insides shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and her love so fine. She touched my hand and what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Ooh, ooh, yeah, yeah. Allora, noi, io guardando la scaletta mi stava venendo un pensiero molto interessante. Ovvero sì che la puntata di oggi potrebbe essere chiamata le misure per far decollare l'economia, diciamo così. Uno, la prima è stata quella là, appunto, che va nel filone della legge Gelmini, l'università, insomma, a sganciare questo treno morto della formazione e farla lavorare in maniera oscena. E dall'altra parte c'è la questione internazionale, in cui rientra ovviamente la grande impresa, eccetera. Dall'altra parte c'è il marchione di turno che ci ripiega quelli che sono i diritti civili, dei lavoratori al servizio della crescita, tanto cresciamo, no? E quindi per crescere, giustamente, invece va a notare prima Peppe, che per crescere bene uno bisogna che sia di buona costituzione, giusto? Di conseguenza le misure per la crescita non possono non coinvolgere la Costituzione italiana, che anche questa, no? Mentre noi siamo convinti di avere a che fare con un povero porco, no? Che va in giro appresso alle sedicenni, quattordicenni, cose eccetera eccetera, intanto dietro si muove qualcosa. Infatti è notizia appunto di stamattina che il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al disegno di legge costituzionale. Il disegno di legge costituzionale che reca modifiche a tre articoli della Costituzione: il 41, il 97 e il 118. Ecco, questo qua è interessante. Ovviamente è un disegno di legge che avrà il suo percorso, essendo una modifica costituzionale a tutti i vincoli che sappiamo. Ma è importante la direzione con cui si vuole andare. È importante capire anche quali sono forze che stanno spingendo per questa modifica. Ci sono articoli sul Sole 24 Ore che sono preoccupati per l'esito di queste modifiche, perché forse vista la situazione del governo non sarà possibile attuarle, eccetera. Ci sono altri che invece sono molto più fiduciosi. Comunque cerchiamo di capire cosa succede. Allora, l'articolo 41, ne parlavamo già nella puntata scorsa, l'articolo 41 è quello che parla dell'iniziativa privata, l'iniziativa economica privata. La Costituzione impone in qualche modo a tutti coloro che in maniera assolutamente libera vogliono affrontare un'impresa appunto economica, siano un'impresa, un'impresa sempre, sempre a fin di bene comunque, uno che vuole fare un'impresa lo fa sempre cercando il modo migliore per, dire, cioè, per fare profitti, il modo migliore per approfittarsi, insomma. E infatti bisogna approfittarsi in maniera socialmente sostenibile, ecco, questo è quello che dice fino adesso la Costituzione. Ovviamente in molti frangenti questo qua è un articolo che viene ampiamente disatteso, e la sostanza è che se tu fai un palazzo di 15 piani, preoccupati che ci siano i parcheggi per quei 15 piani, preoccupati che ci siano i marciapiedi, gli allacci delle fogne, eccetera. Diciamo che tutta la costa ionica da cui io provengo è la dimostrazione del fatto che in generale questa impresa buona e sociale, diciamo che se ne è sbattuto, ha avuto spesso e volentieri modo di passare oltre l'articolo 41. Comunque c'era questa questo timore comunque dell'illegalità. Invece giustamente per favorire la crescita economica bisogna avere una buona costituzione, come dicevamo prima, quindi cambiamo la costituzione, diciamo che l'iniziativa economica privata è libera, punto, è libera e può essere fatta in maniera tranquilla, senza questi limiti, eccetera eccetera. È permesso, cioè questa è la modifica interessante, no? Prima si diceva aspettate un attimo che la trovo. Allora, la prima dice: l'iniziativa economica privata è libera e non può svolgersi, si diceva prima nell'articolo 41, ancora adesso lo dico, si dice, se passerà la riforma poi verrà cambiato, però al momento è così. L'iniziativa economica privata è libera e non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Dopo, la proposta di modifica è questa: l'attività economica privata è libera, e poi si aggiunge una frase: ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge, che è un po' diverso perché questo di fatto invalida tutto ciò che c'è dopo nella frase, cioè non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, eccetera eccetera. Cioè queste qua sono belle parole che però valgono quanto un duo di bastoni quando la briscola è a coppe, cioè valgono ben poco. Per citare Di Pietro, vorrei far notare la citazione colta che Gustavo sta facendo, insomma. Sì, adesso mi trovo sinceramente in difficoltà con il giustizialismo di Pietro, non so come svincolarmi, e dico che ci azzecca, che ci azzecca questo. Comunque, articolo 97. Articolo 97 prende in esame i pubblici uffici che dicono che praticamente il cambiamento è che le pubbliche funzioni, ovvero sia le funzioni pubbliche che sono, penso, agli uffici amministrativi di vario genere, sono al servizio del bene comune. Il bene comune non viene meglio definito, ma possiamo immaginarlo, visto e considerato che la linea è quella che in cui stiamo andando, ovvero sia tutte queste riforme sono fatte per aumentare la produttività del paese, per aumentare la crescita. La linea ci viene anche indicata dall'articolo 118. La modifica infatti cambia una parola e dice che gli enti locali, quindi i nostri comuni in sostanza, e comunque gli enti che sono territoriali, non devono solo favorire ma anche garantire l'autonomia d'iniziativa. Prima dicevano che gli enti locali dovevano lavorare nella loro autonomia e favorendo, ove possibile, l'autonoma iniziativa, ovvero sia, diciamo, l'iniziativa d'impresa, l'iniziativa del privato in sostanza. Adesso non solo c'è diciamo questo auspicio al favorire l'iniziativa autonoma, ma è specificato in questa modifica che si vuole fare che deve garantire l'autonomia iniziativa. Quindi in sostanza si mette un altro paletto, si dice anche gli enti territoriali, anche gli enti comunali devono lavorare affinché si sviluppi l'iniziativa privata. Penso che questo si tradurrà in finanziamenti, eccetera. Questo, prego. Un po' come nel mio comune, in cui il sindaco recentemente è stato inquisito e il suo materiale è stato un po', come dire, parliamo del sindaco di Scale, è stato un po' passato sotto una certa sorveglianza perché finanziava, perché, come dire, aiutava una certa azienda per la raccolta delle immondizie, una certa azienda che era di un certo suo amico, e quindi questo serve già, quindi siamo in una linea che ci sta dicendo che abbiamo già gli enti locali che si prodigano per, come dire, dare una mano a questa autonomia di questa autonomia finanziaria, no? Dare una mano a far sì che questo bene comune sia sempre portato avanti, sotto, come dire, sviluppato, ecco. In questo momento penso che potrebbe essere letto come qualcuno che sta garantendo l'autonoma iniziativa. Adesso è ovvio che noi facciamo un passaggio veloce su queste cose, anche perché non siamo giuristi, farebbe comodo in queste occasioni avere qualche studente di giurisprudenza, ma anche di scienze politiche, che decifri questi testi sacri. La cosa che ci preoccupa sostanzialmente è che tutto il resto dell'opinione pubblica sta guardando Ruby e il suo nascituro e il suo futuro marito e si compiange quasi schifata, questo premier osceno e incapace, guardandolo come un deficiente. E invece pensiamoci tutti quanti un po' che se quello è là, vuol dire che ci spirti noi, sentite, nel senso che non guardiamo il dito, o meglio, non guardiamo lo schermo che abbiamo davanti ai nostri comodini, davanti ai nostri letti, davanti ai nostri divani, davanti ai nostri frigoriferi, davanti ormai ai mucchini, si cose, no? Cerchiamo di conoscerli meglio, cerchiamo di capire che quando si alza un polverone che ha qualcosa di assurdo, dietro c'è qualcosa, loro si muovono. Questo è il messaggio, al di là della declinazione del vario articolo o della modificazione della libertà d'impresa, eccetera, che magari sono questioni che meriterebbero un approfondimento maggiore. Comunque vogliamo farvi capire che, diciamo, non si occupa solo di prostitute il nostro premier, ma anche del nostro futuro. E lo fa ben d'onde, lo fa in maniera abbastanza, con una intensità e un agonismo abbastanza serrato, diciamo così. Ora, un pezzo che è stato vittima di censura, mi spiegavano poco fa, io ho cercato la versione non censurata, ma non l'ho trovata, quindi mi limito a ripetere il testo non censurato, così, a voce. Fa: ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino. Giocavo a far la mamma con il bimbo da fasciare. Questa è quella, quella è quella censurata, mentre quella non censurata è questa qua. Ancora adesso che bestemmio e bevo vino, per ladri e puttane mi chiamo Gesù Bambino. Giocavo alla Madonna con il bimbo da fasciare. Questo qua, questa censura è stata fatta per entrare a Sanremo. Io non sono di coloro che dicono poverino è stato censurato, e poverino il cavolo, lui si è fatto censurare perché ha voluto andare a Sanremo. Però è una bella canzone. Lucio Dalla, 4 marzo 43. Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare. Parlava un'altra lingua, però sapeva amare. E quel giorno lui prese a mia madre sopra un bel prato. L'ora più dolce prima d'essere ammazzato. La stanza sul porto, con l'unico vestito ogni giorno più corto. E benché non sapesse il nome e neppure il paese, m'aspettò come un dono d'amore fino all'ultimo mese. A 16 anni quel giorno la mia mamma, le strofe di taverna le cantò a Nina Nanna, e stringendomi al petto che sapeva, sapeva di mare, giocava a far la donna con il bimbo da fasciare. Come nostro Signore, della sua breve vita il ricordo più grosso, e tutto in questo nome che io mi porto addosso. E ancora adesso che gioco a carte e peppino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino. Del mondo ha scelto la sua strada contro l'imperialismo per una nuova società. Brasile, San Domingo, America Latina, se giri per le strade senti gridar così: Yankee, Yankee, Yankee, tornate bene a casa. Yankee, Yankee, Yankee, levatevi di qui. Yankee, Yankee, Yankee, tornate bene a casa. Yankee, Yankee, Yankee, levatevi di qui. I falchi americani con bombe e chewing gum volevano piegare la terra del Vietnam, ma il vecchio Dio sa, dovrà partir di qui. È troppo forte il vento che viene da Guantri. Yankee, Yankee, Yankee, tornate bene a casa. Yankee, Yankee, Yankee, levatevi di qui. Yankee, Yankee, Yankee, tornate bene a casa. Yankee, Yankee, Yankee, levatevi di qui. Nel Vietnam, in Cambogia, nel Laos, in Indocina, gli americani senton che la fine è vicina. La gioventù del mondo ha scelto la sua strada e fino alla vittoria è al fianco del Vietnam. Yankee, Yankee, Yankee, tornate bene a casa. Yankee, Yankee, Yankee, levatevi di qui. Yankee, Yankee, Yankee, tornate bene a casa. Yankee, Eccoci tornati. E nonostante la nostra scelta di canzoni continua a essere affidata al caso, o meglio affidata al nostro mitico, eccezionale, indimenticabile Peppe Lounge alla regia, che è una sicurezza, è come avere un buon portiere, hai alle spalle una, come dire, un'organizzazione, questo è fantastico. Bene, dopo questo noi riprendiamo parlando, citando due occasioni che sono state ieri e oggi nel mondo cosentino. Avremo con la contestazione oggi avvenuta a Chiamparino e nella manifestazione che oggi promuoveva gli incontri che gli incontri degli enti con Consiglio Perugini e Chiamparino oggi erano a parlare di beni comuni, di amministrazioni locali, e quindi una decina di attivisti del Movimento per l'Acqua sono andati oggi a far notare che c'è ancora molto da fare per l'acqua pubblica, molto da fare perché non passi per opporsi a questa visione del bene comune come elemento di profitto, come elemento di beneficio privato, ma che rimanga l'acqua uno degli elementi che fa parte del nostro patrimonio essenziale, del nostro patrimonio umano che avremmo diritto tutti quanti. E quindi oggi una decina di attivisti hanno volantinato, hanno parlato appunto per promuovere, per far sì che anche gli enti locali si sensibilizzino a queste tematiche. E un'altra iniziativa c'è stata ieri, promossa dai compagni del Rialzo, che parlavano anche, facevano notare che è arrivata una denuncia a Gaetano per la contestazione a Tilger che c'è stata a Cosenza il 16 novembre. Questa contestazione si muoveva è stata promossa da diversi comitati, diverse associazioni, diversi collettivi nel territorio cosentino e dall'università si muovevano e continuano a muoversi per una visione, però, come dire, ciascuno nel proprio campo per l'università pubblica, per per l'accoglienza ai migranti, per organizzare tutte quelle piccole cose che cercano di tendere verso un mondo più aperto, un mondo migliore. E quindi Tilger, con il suo passato di elemento dell'estrema destra, e con le sue visioni oggi che porta di una destra xenofoba, una destra autoritaria, e che chiude gli spazi di dialogo, chiude gli spazi di incontro, che vuole precludere a una società più unita e solidale, veniva a esprimere qui sotto le vesti appunto di un contraddittorio, di un incontro, di un congresso, veniva a portare questi elementi questi concetti che la nostra società ultimamente iniziano a prendere piede pericolosamente. E nonostante questo, oltre a questo, c'è da dire che la destra, il partito a cui Tilger oggi è associato, non possiamo non notare anche quello che è il suo peso politico che oggi sta avendo come stampella al governo di Berlusconi. Ah, mi pare che comunque in generale in passato anche c'è stato questa curiosa funzione e sinergia, no? Tra questi estremismi destrorsi e lo Stato in generale. In generale loro da sempre lo sono, da sempre sono stati i curatori e il vero braccio armato dello Stato. Quando in passato facevano saltare in aria le persone, e quando oggi incendiano ogni tanto per passatempo qualche clochard o qualche migrante, no? E così loro la vedono un po' così, sono artisti dentro. Penso che quell'occasione fosse anche un momento per tastare il territorio, era anche un tentativo fatto appunto per vedere, ma vediamo se Cosenza è vero che è un territorio ostico per le nostre idee. Ovviamente il territorio ostico di Cosenza non lo è semplicemente per la giornata in sé, che ha visto la partecipazione di un centinaio di persone, militanti, attivisti, ma anche studenti che volevano esprimere quella che era la loro contrarietà netta a quello che stava succedendo nella casa dei cittadini, tra virgolette, di Cosenza, a cui anche gli studenti ovviamente sentono di partecipare e di appartenere. Ma ovviamente la inattaccabilità del territorio cosentino è dato anche e soprattutto dal lavoro che queste componenti, che erano tutte quante quel giorno in piazza come momento, diciamo, simbolico tra virgolette, con il lavoro che fanno quotidianamente queste realtà, cioè con la politica vera fatta da compagni auto-organizzati, da cittadini che si organizzano appunto per dare un pasto ai migranti, piuttosto che organizzare il loro permesso di soggiorno, piuttosto che organizzarli in cooperative, o piuttosto che studenti che organizzano all'università, come si fa in quest'aula e in qualche altro posto lungo il ponte, le lotte universitarie con i compagni del rialzo che lavorano e combattono per dare una casa ai migranti, che si sono spesi spesso anche nelle lotte operaie, per esempio della Valle Crati. Ovviamente quello che è il messaggio che si può far passare in quella giornata, ovvero sia che ci sia stato uno scalmanato che abbia esagerato, è una cosa che non passerà perché c'eravamo tutti in quella piazza. Cioè. Sì, è vero, come diceva Gustavo, la denuncia è stata, come dire, un modo per dire questo, per dire che c'era un violento, uno scalmanato, un facinoroso, fate voi, le definizioni ultimamente abbondano per queste tipologie, che semplicemente amava lo scontro per lo scontro, che voleva portare avanti chissà quale frustrazione interiore. In realtà la questione è ben diversa. In realtà la questione è che c'è un motivo per cui si eravamo tutti lì. Il motivo è quello che dicevamo prima. Il motivo è che siamo tutti uniti e tutti compatti nei nostri percorsi per cercare di portare, come dire, un messaggio diverso, per portare avanti un'idea diversa di società, un'idea diversa dello stare insieme. E quindi la denuncia viene così anche per delegittimare, anche per isolare uno di questi attivisti che insieme a noi porta avanti questo tipo di politiche. E invece la risposta che abbiamo deciso di dare noi non è quella di giudiziare del processo, di rispondere a questa forma di violenza personale con un'altra forma di violenza, ma abbiamo voluto dimostrare con un appello che sottoscriveremo e con una giornata del 19 in cui scenderemo in piazza a portare ciascuno le nostre rivendicazioni, ciascuno le nostre, come dire, i frutti del nostro percorso, che siano il lavoro con i migranti, che siano il lavoro per l'acqua, che siano il lavoro per un'università pubblica e per tutti, per il sapere e l'istruzione pubblica, sia perché vogliamo riappropriarci dei nostri diritti, vogliamo lavorare per affinché il posto che viviamo quotidianamente, che sia il posto di lavoro, che sia il nostro posto tra i banchi, che sia il nostro posto tra le persone, sia un piccolo tassello per comporre una società migliore, un posto migliore su cui conquistare per tutti. E quindi il 19 ci incontreremo a Cosenza, appunto per dire che Gaetano non è un violento, uno dei centri sociali come di Tuona, Emilio Fede e compagnia, ma è parte di questo percorso collettivo di persone, pensieri, emozioni che cercano di trovare una strada migliore per andare avanti. Anche se come chiusura andava benissimo quella di Samuele, una riflessione. È interessante vedere come quello che è successo anche lì è l'emblema dell'inutilità, anzi della paraculaggine statale sostanzialmente, nel senso che per quello che porta adesso, per le idee che adesso va praticando la destra e per quelle che sono le loro impostazioni, l'assassino, il facinoroso, quello da sbattere in galera e farcelo marcire, è lui. Nel senso, è quel giorno paradossalmente, è lui, Tilger ovviamente, e paradossalmente quel giorno noi ci siamo trovati a doverci scontrare con lo Stato che stava proteggendo un assassino. E adesso lo Stato si fa carnefice nei confronti di coloro che stavano difendendo la casa, volevano difendere la casa della città, nei confronti di questo scempio, far parlare quei soggetti proprio. E detto questo, un'altra cosa volevo dire, soprattutto ai cittadini di Cosenza che ci sentono. Nel senso, una settimana prima, a Catanzaro, era successo un evento molto singolare, che guarda caso riguardava proprio il contatto tra alcuni militanti che lavorano nel territorio catanzarese e alcuni esponenti di, se non mi sbaglio, era Alternativa Popolare, non ricordo, insomma, alcuni esponenti estremisti di destra. Un ragazzo da questo scontro, un ragazzo del centro sociale di Scosso, ha preso una coltellata in questo scontro. E stavano presentando un libro. Volevo dire a tutti quanti che se noi possiamo girare liberamente a Cosenza con i capelli lunghi, se noi a Cosenza possiamo andare... esprimere la nostra sessualità come meglio ci aggrada, se noi a Cosenza possiamo essere bianchi, rossi, neri o gialli e camminare tranquillamente su Corso Mazzini anche alle 12 della notte, e lo dobbiamo anche al lavoro di tutti coloro che si spendono ogni giorno contro questo genere di idee xenofobe, razziste e quant'altro. Adesso ad Alessia, la sorella di un amico, facciamo anche questo. La sorella di un amico e quindi un'amica, ovviamente. Il nostro Peppe Lange, che è un romanticone, ha scelto un pezzo che sta a pennello con questa parte della trasmissione. Il maestro Faber, Nella mia ora di libertà,

Eccoci tornati. Allora, adesso tratteremo un altro tema interessante, che è quello della Fiat. Ci sono degli aggiornamenti interessanti che nel corso del tempo si sono sviluppati. Dopo i dolorosi referendum, quello di Pomigliano e quello di Mirafiori, una nuova interessante dichiarazione del nostro guru della finanza internazionale, il nostro top manager Marchionne, signore e signori. C'è la sua dichiarazione recente che ha idea. Attenzione. No, giusto per essere chiari. No? È il bello che tutti gli opinionisti della finanza italiana descrivono questo manager come un top manager della cosa che insomma è il migliore in assoluto. E invece ci sono alcuni a livello internazionale e anche italiani che scrivono su importantissime, anche su siti web importanti, cioè scrivono il totale fallimento della gestione di Sergio Marchionne. Cioè, scrivono di come la Fiat aveva pronosticato 2,8 milioni di vendite e ne ha fatto meno di 2 milioni. Come, al contrario, cioè, ma c'è stata la crisi. Al contrario, in Francia, in Germania, addirittura la Volkswagen ha venduto 4,5 milioni di auto. Cioè, il gruppo a Parigi, eccetera, eccetera, Citroën, eccetera, ha venduto 3,6 milioni di auto. Cioè, è una minchia. Cioè, con contratti di lavoro molto più rigidi come quelli di Germania e Francia, di quelli che abbiamo noi. Cioè, hanno riuscito nell'ottica del profitto, utilizzando questo strumento che oggi il nostro top manager in Italia vuole distruggere, il contratto del lavoro, cioè i diritti. E in sostanza la dichiarazione di Orlando prima era quella che vuole spostare, con grande terrore dei nostri enti locali, vuole spostare l'headquarter, la casa base della Fiat a Detroit. Che simpaticata. Dopo aver vinto, tra virgolette, dei referendum, soprattutto quello di Mirafiori, in cui 2000 persone si sono frapposte tra il grande capitale finanziario e i diritti dei lavoratori, dopo aver vinto questi referendum sull'onda dell'attacco ai diritti, promettendo finanziamenti, promettendo, come dire, posti di lavoro, un po' mi ricorda qualcuno questa promessa di posti di lavoro. Comunque, adesso lancia questa cosa di spostare la base della Fiat a Detroit e quindi far sì che l'Italia, che ha dato finanziamenti infiniti alla Fiat e ai profitti di questa casa automobilistica, adesso si ritrovi a essere, come dire, il fanalino di coda di quello che è questa multinazionale che si viene a creare. Cosa veramente imbarazzante, che ha provocato una serie di discussioni, da tutte le parti d'Italia, e che anche nelle fila di quello che dovrebbe essere il partito di opposizione, il PD, lascia, come dire, un po' di persone un po', come dire, con delle dichiarazioni un po' imbarazzanti, trovo, come quella di Chiamparino, che sostanzialmente, parlando al tempo che fa, qualche tempo fa, appunto, diceva che a lui starebbe quasi quasi bene, ma solo in un'ottica in cui, siccome adesso questa è un'azienda mondiale, si devono spostare un headquarter in ogni continente, quindi uno in America, uno in Sud America, uno forse in Cina, speriamo, e un altro qui. Beh, trovo che sia una quello che Gustavo definirebbe una paraculata pazzesca, nel senso che Certo, Marchionne può aprire pure centinaia, forse migliaia di headquarter, ma è chiaro che l'organizzazione del capitale, l'organizzazione dei profitti è molto forte, forse più organizzata di quella che abbiamo noi studenti, noi cittadini, e quindi poi alla fine la testa una è, e quindi se l'intenzione è quella di spostarsi come fanno, come abbiamo proposto di fare in Serbia, come fanno in Russia, come fanno in altre zone dove il contratto di lavoro non so neanche che cos'è, dove la forza lavoro viene pagata niente, lo faranno chiaramente anche con questo headquarter dove, come dire, dove gli conviene vanno, insomma, no Gustavo? No, ma infatti io stavo leggendo anche un'altra curiosa notizia, molto curiosa. Dice, facciamo una cosa, da qualche tempo in poi tutte le auto Chrysler verranno carrozzate col logo Lancia. Questa è la genialata, no, del grande manager, nel senso, è inutile, cioè, Marchio, una cosa, posso dire sinceramente, ma per fare... Per aumentare i profitti di un'azienda, due sono le cose, leggi di mercato, no, due sono le cose. O aumenti i profitti, o diminuisci i costi. Mo, i manager solitamente aumentano i profitti. Nel senso, lo scopo della figura del manager è aumentare i profitti. Diminuire i costi, quindi diminuire i salari, cose, cioè, ci pensano già i sindacalisti. Mo, tu lasciaci stare, oppure devo fare una cosa bella, siccome come imprenditore un ciampaggio, no? Per favore, ma iscriviti alla CGIL, che là sarai molto più consono a quello che sai fare, perché fino ad adesso sei riuscito ad abbassare solo i costi, questa è la sostanza, cioè non è, è giusto un'altra riflessione riguardo alla deficienza di Marchionne, così, giusto per... Gustavo scherza, Gustavo. In effetti è vero che grande parte dell'abbassamento, cioè grande parte del peggioramento delle condizioni lavorative oggi si deve anche e soprattutto all'azione, come dire, all'azione filo padronale di molti sindacati. Tanto è vero che oggi si leggeva che Tremonti, Bonanni e il capo segretario della UIL, non mi ricordo mai come si chiama, si prenderanno un treno e scenderanno, faranno un incontro a Roma, uno a Lamezia, uno a Reggio, per non solo, questi sono dalle parti più in meridione, faranno un giro per l'Italia per spiegare le ragioni di questa innovazione economica e tecnologica che stanno proponendo agli italiani. È vero, molte delle disgrazie oggi, delle condizioni del lavoro, si devono soprattutto anche ai sindacati. Però la cosa interessante la diceva, non mi ricordo quale esponente della FIOM, quando venne a parlare anche qui all'università, dicendo che una volta, ai tempi d'oro, si dice, negli anni 70, 60, riforma voleva dire un avanzamento, riforma voleva dire un miglioramento, la prospettiva di una soddisfazione in qualche modo, di un miglioramento di quelle che erano le condizioni di vita, di dare voce a quello che era le rivendicazioni sociali. E quindi ricordiamo anche le grandi lotte, le grandi battaglie che hanno portato a grandi conquiste, a grandi conquiste che hanno fatto sì che in Italia, piuttosto che in altri paesi anche dell'Europa stessa, ci fosse una condizione di vita migliore. Oggi invece riforma vuol dire sostanzialmente un arretramento. Infatti quando si batte in maniera bipartisan su bisogna fare le riforme, come se le riforme fossero un carattere quasi assoluto, quasi una cosa che va bene dove lo metti i vetti in qualsiasi stagione, ecco, questo molto spesso si traduce in un arretramento, in condizioni di vita peggiori, in un abbassamento dei diritti, un abbassamento delle opportunità di vita, come lo vediamo benissimo, è per l'università, almeno da un ventennio a questa parte, in nome dell'autonomia degli Atenei, in nome della competitività degli Atenei, in nome della resa sul mercato del lavoro, hanno devastato, hanno destrutturato il nostro sapere, e non solo, il nostro diritto allo studio, la nostra capacità di vivere un percorso di formazione, di consapevolezza, di presa di coscienza e perché no anche di socialità. E questo in nome della logica aberrante del profitto. Per capire, diciamo, come potrebbe essere declinato il concetto di profitto e di capitalismo per il nostro Peppe Lange, vi facciamo sentire un pezzo di un grande gruppo italiano che è, cioè, parliamo di capitalismo, quindi penso che va bene questo. Vai Peppe Lange. Io ho 23 centimetri. Quando ero piccolo tutti mi scherzavano per le dimensioni del mio pene ed io non stavo bene, soffrivo le pene per colpa del pene, ma più il problema non si pone, sì, perché il pene mi dà il pane, sono diventato un grande attore e benché schiavo dell'amore mi sono comprato una moto e ora sono schiavo della moto, non faccio più moto. Ho la critica e concorde, né rida né più sudicio, perché non hanno capito, non parlo perché sono rapito, e poi in faccia non sono mai inquadrato, però dal pubblico sono venerato, e ora sono diventato vinto.

just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me. Eccoci tornati sulla scoppiettante trasmissione di Banda Armata su Fuori Onda Radio, che va in onda via web attraverso le frequenze del collettivo e anche in replica su Radio Ciroma alle 17.30 e su Radio Transizione di Fase, un'altra web radio, alle ore 21. Ecco, abbiamo sempre giovedì, grande Peppe Lounge che mi ricorda le cose. E riprendiamo, abbiamo citato i movimenti ambientali, i movimenti per l'ambiente, e io penso sia una chiave di lettura interessante anche per arrivare alla questione internazionale, che è una questione importante che oggi si presenta agli onori della cronaca per i fatti dell'Egitto. Ebbene, riflettevo poi a posteriori del 28 gennaio, l'amministrazione nazionale della FIOM, in cui c'è stata una sorta di sinergia in quell'occasione anche con diversi movimenti ambientali, come poi la chiave di lettura del lavoro sia una cosa che unisca in generale le diverse nazioni in cui ci sono in atto dei percorsi importanti. Per esempio la Tunisia, sono presenti l'ENI, l'Ansaldo, tante diverse multinazionali che fanno il bello del cattivo tempo, devastando il territorio qua e là dove si trovano, a seconda di dove i loro profitti li portino. E in Tunisia, proprio in Tunisia, questa situazione di sfruttamento, di supersfruttamento, ha portato per comunità delle grandi multinazionali alla creazione di molti governi fantoccio, lì come in diversi altri stati del Maghreb, che sostanzialmente si reggono da in media 15 anni e che sono lì appunto per portare avanti quelli che sono i profitti internazionali. E lo fanno in barba a qualsiasi delle leggi democratiche che i nostri democratici, tra virgolette, ci portano e ci propinquano. Lì, in sostanza, la situazione sia ambientale che lavorativa è molto precaria. E la questione è aggravata appunto dal clientelismo, dalla corruzione a cui questi governi nazionali si trovano impastettati, insomma. E di fronte a questa situazione pericolosa, anche aggravata anche dai fenomeni internazionali della crisi di cui già molti parlano, in Tunisia, appunto, che è stato il primo focolaio di sollevazione popolare, c'è stato un elemento che poi ha fatto anche detonare la latente rivolta sociale. È stato il suicidio di Bouzazi, perdonate la mia terribile pronuncia. E questo laureato non aveva trovato nessun altro tipo di posto di lavoro, nessun altro tipo di impiego se non quello a vendere frutta con il suo carretto. Quindi in sostanza si trovava in una situazione di supersfruttamento. Oltre a questo, gli organismi di repressione come la polizia, come la polizia appunto si sono trovati a requisirgli, siccome non aveva la licenza, a requisirgli il carretto e tutto quanto il resto e portarlo in galera. E quindi lui, preso da un motto di disperazione, si è dato fuoco. E questo è stato interpretato, questo dato, da tutta la popolazione, soprattutto dal diffuso precariato giovanile, come la goccia che fa traboccare il vaso. E lì sono esplosi manifestazioni, scioperi, anche di grande intensità. A questo... In questo movimento poi si è associato un sindacato nazionale dei lavoratori, che ha dato un respiro nazionale a questo, a questa protesta, a questa rivolta. E quindi la sollevazione si è allargata e si è resa sempre più importante, più imponente, al fine di proporre, di portare un grande numero di persone in piazza, e che da una richiesta minima di pane e lavoro, che dovrebbero essere le cose garantite a tutti se il mondo fosse diverso, ha portato alla cacciata di Ben Ali e alla, come dire, a una mobilitazione quasi permanente all'interno della Tunisia. Questo ha dato il là all'interno di tutta l'area del Maghreb ad una come dire, ad un rinvigorimento delle lotte che si stavano portando avanti, e che in egual modo, se non in modo peggiore, colpivano gli altri paesi. E così è successo in Cisgiordania, è successo in altre parti, in Algeria, in altre parti, e così anche in Egitto. In Egitto, dove la situazione era pressoché la stessa, salvo poi che l'Egitto si trovava in una condizione un po' paradossale, perché nonostante tutto, nonostante la crisi internazionale, l'Egitto è uno dei paesi che comunque continua ad essere efficiente secondo i parametri del PIL. È efficiente, vediamoci perché. Perché l'Egitto si regge in gran parte su quelli che sono gli investimenti stranieri, gli investimenti di capitali stranieri, e quindi questa cosa si ritrova nell'organizzazione poi di quella che è la società egiziana, che è basata molto su quello che è lo sfruttamento straniero. Sfruttamento che il regime di Mubarak ha sempre avallato in maniera clientelare, in maniera, diciamo, da regime, appunto. La situazione si è poi aggravata dallo scoppio delle mobilitazioni in Tunisia, che hanno portato molta gente in piazza, e allo scoccare del venerdì, della preghiera del venerdì, in due grandi stati, in Albania e in Egitto, ci sono state grandissime mobilitazioni nazionali, che hanno portato in Albania ad praticamente una passeggiata per compiangere i morti durante i tre morti durante le mobilitazioni, mentre in Egitto hanno provocato una mobilitazione permanente in cui grande parte della popolazione si è accampata nella principale piazza del paese e ha voluto esprimere lì quelle che le ragioni del suo dissenso e le ragioni del suo contrasto al regime di Mubarak. Dopodiché si è stato proclamato uno sciopero generale, la mobilitazione è continuata in forme diverse a oltranza fino a che il regime di Mubarak non ha voluto portare in campo l'esercito e la polizia, ma anche loro sommersi da quella che è stata l'ondata di mobilitazione che continua a portare persone in piazza, e anche la polizia in molti momenti ha solidarizzato con i manifestanti, e quindi il Mubarak ha ritirato l'esercito da presidiare le strade e ha scelto di portare avanti un'altra via, quella di assoldare un po' di suoi adepti, un po' di suoi scagnozzi, a contrastare le mobilitazioni cercando di far sfollare la piazza attraverso, come dire, una sorta di guerriglia. Anche questa tattica del regime di Mubarak è fallita, e appunto la mobilitazione è ancora lì che presidia la piazza, nonostante tutto in cerca di rivendicazioni, di soddisfazione. E, Gustavo. La cosa è importante sicuramente. Io, per sottolineare questa importanza della cosa, la farei sottolineare al nostro grande Pepe Lange, con quello che vuole. Questo che io sento è solo il silbar del vento, esteso e mi torniento, perché non sento a te. Questo che io sento è solo il silbar del vento, esteso e mi torniento, perché non sento a te. Grande attacco di canzone, Gustavo. No, l'ho visto, gli ho passato il microfono perché l'ho visto dentro di sé, sentiva, c'erano grandi sentimenti di emozione. Si vede che lui ha in sé quella massima, che dovunque c'è qualcuno che soffre, che lotta, si sente vicino, si sente di compatire quella cosa. Compatire proprio nel senso latino di compatire, soffrire insieme, bello. Comunque, continuiamo. Beh, è interessante nella dinamica della egiziana, e anche la conformazione poi di quello che è il fronte di resistenza, quello a Mubarak, e quindi la grande parte sia del precariato giovanile che dei lavoratori, non da adesso ma da almeno 5 anni a questa parte, scende in piazza e si trova nonostante il sindacato di regime sia appunto filo Mubarak, in questi ultimi tempi anche lui, a fronte di una pericolosa, come dire, di un pericoloso peggioramento delle condizioni lavorative, allora si è visto costretto a chiedere al governo dei miglioramenti, degli aggiustamenti, che in alcune parti gli sono stati anche concessi. Ma gli operai e i giovani si sono trovati insieme a costituire il movimento 6 aprile, che nasce appunto, prende il nome appunto da una giornata in cui sono morti diversi operai, perché la risposta di Mubarak è stata non solo quella conciliante, magari qualche accontentino, come avviene anche da noi qui, qualche accontentino, ma anche e soprattutto il piombo, la risposta col piombo. E quindi sono morti centinaia di operai in questi ultimi anni per la dura repressione. E in sostanza però questo movimento si inserisce e cerca di organizzare la lotta appunto non tanto pro o contro questo regime, ma chiaramente contro, non soltanto andando ben al di là di quello, volevo dire, di questo regime, ma cercando veramente condizioni migliori per la popolazione. Cosa invece che non fanno la grande parte del comitato per l'opposizione, che vede insieme l'organizzazione islamista e autoritaria dei Fratelli Musulmani e altre organizzazioni, piccole organizzazioni governative che sostanzialmente propongono El Baradei come candidato a sostituire Mubarak alla guida del governo egiziano per cercare di portare avanti quella che è la transizione democratica e del post Mubarak, senza intaccare però quelli che sono gli interessi di fondo che hanno generato questo malcontento, che continuano a portare avanti questo stupro dell'Egitto. E in sostanza una delle parole d'ordine che oggi porta in piazza molti lavoratori e molti precari, insomma folle in piazza, è stata anche non solo la rivendicazione di pane e lavoro, pane e giustizia, ma anche quella di la cacciata del governo. E di fronte anche all'opposizione delle forze militari, l'opposizione dell'apparato repressivo, grandi sono stati anche i fenomeni di organizzazione della rivolta, che si è saputa benissimo, che ha dato prova di grande civiltà, al contrario dei suoi governanti, organizzandosi in ronde armate per la difesa della propria incolumità e anche presidiando il museo egizio, lo storico e importante museo egizio, che era stato assalito da quelli che sono i loro black bloc, insomma, saranno stati infiltrati o disperati, chi lo sa, e si sono organizzati e hanno difeso hanno presidiato e controllato anche il Black Bloc. Quindi forse sarebbe molto più interessante chiedere lo scioglimento dell'esercito in virtù di queste formazioni popolari, insomma. Comunque noi ci auguriamo che la lotta del popolo egiziano riesca veramente a portare ad una soluzione migliore per la popolazione, e vogliamo con questa canzone esprimere la nostra vicinanza, il nostro sentimento di vicinanza a quella che è la rivolta egiziana, e lo facciamo con una canzone speciale per me che esprime sotto forme diverse una canzone un po' datata degli anni 60, che esprime uno con forme diverse, con forme di allora, quello ma più vicine alla nostra concezione oggi, quello che è uno degli slogan che portano in piazza anche i manifestanti. Lo slogan è: non abbiamo più paura, non abbiamo più paura. E quindi ecco Valle Giulia di Paolo Pietrangeli. In Spagna splendida giornata, traffico fermo, la città ingorgata, e quanta gente, quanta che ce n'era, cartelli in alto, tutti si gridava, e no alla scuola dei padroni, e via il governo, dimissioni, e mi guardavi